perché è inutile che io lo venda usato, come usato, per doverlo ricomprare poi a prezzo pieno. Lampede seduto! È vero, brofè. Capito, e poi gli ho fatto delle piccole regolazioni, capito, che sono indispensabili, se no tutto la capo devo fare. Ok, dai, fate infine mangiare, lancia il profeta e girate voi, io sto in cuori, ciao. Buonasera a tutti, è entrata la Chuck Norris con il calcio volante, col calcio volante integrato. Buonasera, non ci sono, ho acceso adesso, non so chi c'è in ruota, comunque buonasera a tutti, avanti. Ciao Gianni, buonasera anche a te, dai. Ciao profe, buonasera, mangia Marco, sennò poi un casino. Questo è interessante, dai. No, io non compro barchino, assolutamente. Se decido di fare un baracchino serio, adesso vedo cosa dice Fabrizio, vedo da un 48, mi faccio fare da 48. Appena è pronto, appena è organizzato, appena, insomma, appena vediamo che è tutto ok, mi faccio fare la 48, così è qua, è fatto qua, e ciccia, e me lo tengo col divertimento 45, gli altri no, non ne compareggio, tanto, non ne uso già, inoltre stare lì, non ne uso buco. E io, tu non ce l'hai già fatto, Claudio? No, io l'ho venduto a Valerio, non ce l'ho più quello modificato. E Valerio che fine ha fatto? Non ho più sentito. Non so, ogni tanto ci sentiamo su WhatsApp, so che non è stato molto bene con questa schiena, anche lui, la schiena e la gamba, boh, non mi ricordo cosa mi aveva detto, e niente, no, ma quello l'ho venduto a lui, quello l'ho venduto a lui, e poi quello, poi un altro anche l'ho venduto, un qualche 48 anche un altro che avevo comprato a Massimiliano, non mi ricordo che cos'era. C'era un 3009, forse un 3009 Colt. Va bene, lo sta già facendo, Fabrizio, ha detto che se l'aveva comprato uno per farlo, però poi non l'ho più sentito, penso che ancora lo abbia fatto. No, penso di no, sta organizzando, sta vedendo, adesso quando si organizza che magari lo prepara per lui eccetera, che così sa già quello che deve fare, io me lo faccio fare da lui, me lo spedisco fuori, preferisco pagare qua e me lo faccio fare da lui, almeno so che è fatto come cristiano. Vabbè, io già ce l'ho quello della macchina, sono indeciso perché se mettermelo in macchina, ma poi magari la gente sparisce, cosa me lo metto a fare? Ah vai già, aspetta, la prossima volta non c'è più nessuno in radio di nuovo. Adesso perché non tutti a casa, vedi che già stasera c'è meno gente, perché da oggi si può uscire, andare a camminare, a fare, capito? C'è la gente che ce l'ha in giro oggi, non hai idea tu. No, un bel. Quindi cosa pensi che rimanga la gente? Rimarremo quei quattro gatti che eravamo prima. C'era anche vicino a casa mia, dopo la strada che porta su al monte, quella strada nuova, stavano facendo tutti i futtichi di ragazze, di tutti di più c'erano abbastanza. E traffico di macchine, un bel. Io sono per via San Francesco, devo fare cosa in ufficio e no, manco posteggio ho trovato giù in via Carso, figurati, tutto pieno di macchine in borra, vabbè. Anche stamattina qua la piazzetta di Carbonati, lì dove c'è il supermercato, era tutto pieno di macchine perché hanno aperto tutti gli uffici di nuovo, capito? Invece le altre volte andavo tutto chiuso e già si vede che c'è il via di nuovo, là. Vabbè, comunque meglio così. E speriamo che la gente si regoli, però, che non faccia cazzata, perché è sempre dietro l'angolo il virus. Lo so già, è sempre dietro l'angolo, però sembra che ci siano miglioramenti, sembra che ci sia tutto, quindi aspettiamo, piano piano. Io ho visto un sacco di gente con la mascherina, guanti pochi, però tutti con la mascherina, e, insomma, vediamo se si riesce a andare avanti meglio così. Primo giugno aprono anche tutti i bar, ristoranti e pizzerie, il 18 si inizia con altre attività, però ancora da sport, barbieri, apro 18, quindi insomma, dai, ci stiamo muovendo piano piano. Mi ha pagato, però mi è scaduta la carta di credito, dalla banca mi hanno mandato che la posso usare un altro mese, che non è arrivata la nuova carta, che la posso usare un altro mese, di non andare, che intanto non me l'ha arrivata. Ehi, in banca no, non si può più andare. Io per un blocchetto al cinema l'altro giorno e non sono andato, la verità, in moto, perché io devo andare in Piazza d'Italia. Ci ho rinunciato. C'era la gente sino a fuori, stavano facendo entrare a 2-2, ma va via via luci. Non me ne fu finta. Adesso appena ho 5 minuti che cala questa cosa, lo sposto qua in via Carlo Felice del conto corrente. Non so girarmi le balle ogni volta andare in Piazza d'Italia. E almeno lì trovi il parcheggio, da una parte all'altra c'è lo trovi, però metti da lo spin trovi, se non lo trovi c'è e niente, era già lo trovi. Ma anche io quando sono andato l'altro giorno, che poi ho fatto la fila per niente, perché non era arrivata la carta, c'era una fila per entrare agli sportelli e una fila per il banco, ma due file. Sì, no, il banco non si può entrare tutti assieme, ma che poi entra sempre a due, quindi immagino che non è che entrano i sette, no? Aspettano fuori, no? Quindi. Vabbè, no, per comodità io l'unica due operazioni le faccio tutte in via Carlo Felice, qualsiasi tipo di operazione, bonifici, tutto. Miei personali. L'aziendale invece è il banco di Sabetta. Però poi se ti serve un carnet di assegni devi andare per forza in Piazza d'Italia. Per forza, capito? Perché la sede è quella lì. Io ce l'ho lì. Infatti adesso me lo sposto qua. Mancano 5 minuti, faccio la richiesta di spostamento, perché almeno ce l'ho vicino a casa. Non ho problemi, cioè io vado anche a piedi a volte. Vado anche a piedi a fare due passi, soprattutto in questo periodo. Vado sempre a piedi al banco, ma per qua via Carlo Felice. Va bene, che ore sono? Sono già le 7.25, sono già. Dai, io ti lascio e vado a prepararmi, così me ne esco un'oretta, una mezz'oretta col cane. Ok, mi faccio due passi, visto che la giornata è ancora calda, dai. Sentiamo dopo se coincide. Ehi, ciao, ci sentiamo, dai, avanti chi è rimasto, l'attalino ci si. Comunque, se non ci sentiamo, vabbè, ci sentiamo, se non ci sentiamo, ti chiamo domani mattina, ok? Così mi porto via quella roba e poi vediamo un pochino, dai. Ok? Va bene, non c'è problema. Avanti, Piccardino. No, non ho capito nulla, stavo che facendo le prove perché così. E c'era l'attalino Luca, poi gli ho chiamato e non ho risposto. Vediamo un po' se rispondo. L'attalino ci sì. No, Luca. Sì, già, io sono qua, era telefono 25, là. Di Cionciato sta. No, mi ha mandato un messaggio a mio cugino, era di passaggio lì nella sua zona e mi ha detto che c'era la finestra della porta della macchina. Che sicuramente se l'aveva lasciato aperto. Anche se lei dice, tanto già non toccavo niente. Ma non è quello il discorso. Ma è proprio quel deficiente, ci butta una cicca di sigaretta e me la pone in fuoco. Già non toccavo niente, e poi quella zona io via. Vabbè. Non c'è da fidarsi molto, adesso non c'è da fidarsi, lasciarla aperta. Prima la macchina potevi lasciare anche aperta, non ti educava nessuno, ma ui, lascia bellissimo. Anche per un pacchetto di sigarette non aprono adesso. La sigaretta io non ce ne so. Aspetta che chiamiamo Riccardino se lo senti. Riccardino, avanti. Adesso come scelgo di po'. E arrivi 9.5 comportati. Arrivi più fuori o portati che con l'antenna da casa. Complimenti, esce bene perché portati lei. Sì, va benissimo, dai, lo conosco. L'ho avuto anche io quello. Va benissimo, ma sei con l'antennino suo dell'apparato o con l'antenna esterna? Di quelle basi magnetiche. Ma c'è la base magnetica o no? La calamita c'è. Capito. Va bene. Avanti, Natalino. Natalino deve aver chiuso, dai. Riprendi, Luca. Ehi, hai visto quello delle anatre, quell'immagine? Quale? Quello che le fanno scendere dalla camera e fanno andare nel fiume. No, quello che devi indovinare è quante anatre ci sono nell'immagine. No, non l'ho visto. No, non l'ho visto. Oh, sono un rompicapo che si indossi, io non a giocare concentrato. Sono già stressato, ui. Se non mi liberano del tutto da poter fare le cose, io vorrei scendere a Porto Torres, devo ritirarmi un po' di CUD dal lavoro, cazzo casino. Beh, ma posso immaginare. Oh, ma c'è, io sto pensando che la vita non c'ha niente. Secondo me è qualche componente che sta andando male. Mi sta facendo funzionare male lo smitter. Qua. Scende, sale. Che palle qua. Prova a dare due colpettini. No, ma tu di. No, non l'hai fatto. No, non si bloccano, già è bello. Si muove bene. È fluido proprio, qua alla grande, solo che scende e sale, scende e sale. Ti fa come quando si va da laterale, così. È una cosa del genere, non proprio così, però scende un po'. Adesso per esempio è a 5. Quando vado a fischiare sale a 9. Se no è 9, 9 e 10 sale quasi a fondo scala. Vabbè, quindi sono picchi di modulazione magari che ti dà l'apparato. Boh. Roberto, dove a parte roba se ci si no, stavo ascoltando, sto sistemando un apparecchio che mi hanno portato, era poco fa sul 25-26 con Riccardino, ma non l'ascolto, lo sento in mezzo al QRM e dalla nonna, e mi ha chiesto per vedere come usciva con l'antenna, ha detto guarda ti ascolteranno sicuramente Luca, Gianni e tutti quelli che sono giù, io non lo sento Riccardo. Io l'ascolto meglio così che con l'antenna che c'è a casa, l'ho V5 così mi sta arrivando. Vabbè, ma è vicino a te già, dall'altra parte è tutto dall'altra parte, quando è a casa sua è dalla nonna lui. Non è vicino da me, Roberto. Io gioco la partita, se hai cappuccini. No, è cappuccini, è zona via Pascoli. Ah, lui ha detto cappuccini, allora è tomballe lunghe. Vabbè, più o meno, dai, magari il cappuccino in basso sarà, però io so che è vicino a via Pascoli, quelle zone lì. Dove sei? Ciao, Roberto, dove sei Riccardino? Via Pascoli o a cappuccini? Sei di fronte a me proprio. Sei di fronte a me. Ah, ecco. E sei vicinissimo a me a Natalino, più che a Natalino chiamo, io sono un po' più su. Aspetta che poi c'ho il microfono troppo alto. Ok. E niente, là, va bene. Grazie caro. Roberto? Dimmi Marco. Luca, te l'hanno tratto quelle video di YouTube? Luca chi? Luca Riello. Boh, no, non mi ha detto niente, perché poi che video è? Certo che glielo mandato, e se lui non lo guarda è colpa mia, non Marco. No, era la ricezione di Nespoli da Piazza Resini. Poi ti fai un'idea della cosa. Antenna veicolare sempre. Quando mi ha mandato Luca? Ah, ecco, l'ho visto, però non l'ho aperto, dai, ho visto solo il numero di telefono di Natalino, però non ho visto il video, dopo me lo guardo, dai. No, non Natalino, Luca dovrebbe averlo mandato. Oppure Luca si è sbagliato, chissà chi l'ha mandato. A Nespoli l'ha mandato. No, mi ha mandato il numero, ho visto solo il numero di Natalino, siccome ho chiesto il numero di Natalino, che poi ce l'avevo nel cellulare, non l'avevo preso perché non mi appariva. E mi ha mandato il numero Luca, gli ho chiesto il numero di Natalino. E adesso ho visto che c'è anche questo video, non ci ho fatto caso. Vabbè, il numero di Natalino non ti compare perché Natalino è cocomane. Ciao Natalino. Vedi? C'è ma non risponde, è cocomane. Oh, rimango ancora 5 minuti, sto facendo delle modifiche. Sto entrando a questo cavolo di radio, pieno di menu e contro menu, c'ha 50 pagine. E che radio? Un Bibanda, non è il mio, me l'hanno dato per vedere, per impostare i punti e i tune. Ah, ok. Ma quindi Gianni, ancora devi risolvere con documentazione relativa all'ex posto lavorativo? Sì, il problema è che ancora non hanno fatto il modello CUD, capito? È successo tutto un casino, ma non hanno fatto il modello CUD, io devo fare il 730, in più devo fare un'altra domanda, non posso fare nulla perché non c'è il CUD. E poi con questo, tutto ha rallentato questa situazione che hanno creato, che è stata creata. Vabbè, niente di fatto, dai. Luca si riprende, io sto qua smanettando con un cordon bleu, con il bello, col prosciutto e il formaggio fuso. Ui. Marco, sai quanto costa superstar con il suo Amazon, 235,99 euro più 10 euro di spedizione, 245,99 euro. Spese per spedizione già. Allora, io l'ho visto quello anche su eBay, scusate, su eBay c'è un singolo che lo sta vendendo, cioè c'è un venditore che ne vende uno singolo, però essendo singolo ho paura che sia un privato che se lo stia vendendo nuovo per nuovo a una cifra esorbitante, infatti quello è un ladro. Adesso lo cerco su Amazon, vediamo. Ma noi dovrebbe arrivare la macchinetta, i capelli, quella che ti puoi fare anche i capelli sotto la doccia, sparata una cazzata, chissà se funziona, ma poco vi credo. Poi deve arrivare un LCD e dopo domani arriva l'antenna di Giuseppe. Marco, guarda questo amico di X10 Transilver. Aspetta, ripeti già. Amico di X10 Transilver. Lo conosco. Ecco, ti dico che me lo stavo corteggiando. Io mi stavo corteggiando tre cose in questo periodo. Questa Linco di X10, che poi sarebbe il vecchio 135 di X, oppure un ulteriore 3009, nuovo omologato a uso futuro, oppure il Rosmetro Daiwa. Questa Linco mi sta piacendo, lo sta facendo vedere, scusate che non guardo bene. Guarda, è come il CRT 6009, forse un po' più piccolo, un po' più compatto, e c'ha anche meno watt, c'ha pochi watt, c'ha 4 watt M12 SSB. Oggi comunque si vede che la gente è più in giro, stamattina era pieno di gente in giro, macchine, moto, gente a piedi, e anche al baracchino poca gente, saranno a zonzo. Faccia i segni del datatore, so che capirai, tu non mi servirai ancora. Come canti bene, Eugenio? Buonasera, ciao Marconi. Buonasera, baciamo le mani, aspetta che il messaggio a destra manca, un attimino. Vai Luca. Dimmi cosa hai fatto con il greco sulla spiaggia, senza fiato, senza brocco, tu sei tornato alla pistrocco. E lo veni su, poco fa c'era il profeta. Gianni lo profe. Ho visto le ultime. Aspetta che sto ascoltando un messaggio vocale. Ciao Eugenio. Eh beh già, da fu su. Più o meno. Ma visto che c'era Natalino che stava cercando un baracchino, perché non gli proponi il tuo Uranus se c'è il burino c'è? Se non vuole. No, l'Uranus il burino c'è non ce l'ha, cioè non credo. No, assolutamente no, non ne ha. Ma c'è Angelino anche. C'è Angelino anche. Ciao OG. Ciao Lucky Pus. Ehi, dimmi. Ok, OG ti saluta Riccardino, che tu lo senti, io lo sento perché è vicino a casa mia. Riccardino, buonasera, vieni avanti. No, ti sente, no, non ti sente, lo sentiamo portatile. Ciao Eugenio. Ciao Gianni, buonasera. Come mai vuoi stare dal portatile? No, fatti un portatile, io attaccati al baracchino normale. Vabbè, c'è quello al momento. Vediamo un po', Angelino ci sei? Ciao, Angelino c'è. Ma chi è Angelino? Di Alghero. Non lo so, qua non arriva. No, io vedo una portantina mutta a Santiago 6. E qua è uno. Ma ricordati Luca, anche qua mi segna Santiago 2, ma in realtà sul Kenwood era Santiago 6, capito? Mi ero fatto la corrispondenza, segnale reale, segnale di questo smitter farlocco. Ho capito. Cioè io naturalmente ti dico il segnale reale che dovrebbe avere, capito? Non ti dico uno o due, perché se no mi acciantarano. Se do segnali troppo bassi me ne dicono troppo. Cioè, già capito. Che merda. Avanti Gianni, chi c'è rimasto? Chi c'è? Tu, Marco, poi c'è Riccardo, vabbè. Eugenio, poi già. Io non rispondo, riprendi tu, Eugenio. Ok, stavo rispondendo al telefono. Ciao anche a te Eugenio, dai. Comunque Marco, quel apparato che ti ho detto, la Linco, esce con 12 watt in AM e 22 in banda laterale. Ah no, c'hai ragione già, ho sbagliato io. 12 AM, 20-22 in banda laterale, hai ragione, ho sbagliato io. però per dire il CRT 6009 è simile molto, però ne ha, vabbè, 12 AM, 30 FM e 30 SSB. Però quello è carino, gli puoi cambiare anche il colore display, lo sai, puoi fare verde, magenta, rosso, azzurro, giallo, tutti i colori. Brecco. Avanti. Ciao Fabrizio, sto provando un microfono, vuole, mi dite come sta uscendo per cortesia? Ciao Fabrizio, a me è perfetto, va bene. Avanti Gianni, boh, Marco. Oh, Fabrizio, buonasera. Ciao Gian, no, era una curiosità per vedere una prova che stavo facendo, se stava uscendo questo microfono, se non dovrebbe essere amplificato, come lo senti già? È una radio normale, è abbastanza presente, dai, non è fortissima come radio, però accettabile. Va bene già, ti ringrazio, adesso spengo e me ne vado a guardarmi un po' di telegiornale, che sono stanchissimo. Ehi, dai, buona visione, Fabri, buono anche qua, timbrica simil K, può essere? È un microfono dell'Alan che sto provando, dell'Alan 48. No, è bella forte qua, Fabrizio, Eugenio da Porto Torres, buonasera. Ciao, ben sentito Porto Torres, vabbè guarda, questa è la radio col Mickey Gain a 1,5. Aspetta che provo, vabbè, questo per il microfono dell'Alan 48, aspetta che provo l'altro. Oh, una bella radio, è bella presente. Forte. Questo invece è il suo microfono della radio, quello che c'ha vino di in genere. Anche questo qua va bene. E questo è l'MC60. No, è bella radio lo stesso, cavolo. No, per vedere se stavo uscendo bene col microfono, perché dovrei iniziare alcune modiche e volevo vedere se il microfono ne valeva la pena. Quindi vabbè, su questo è ovvio che esca bene. A me arrivi bene, poi ti hanno confermato anche gli altri, di lusso, va bene. Gianni, come la trovi la differenza tra questa e l'altra? Questa è più nasina, l'altra è la più bella. Questa è amplificata però, eh. Questa è anche un attimo più forte, dai. Non è male, ma con questa fa bene. Insomma, io posso sollevare leggermente così. Che cosa succede se sollevo così? È troppo? No, non sta cambiando nulla, Fabio. Aspetta un attimo, mi sembra strano, guarda. In questa maniera è cambiato qualcosa? Sì, adesso sì. Ascolta, adesso come la trovi? Croccante? Stai strappando, Fabrizio. Bella forte. No, vabbè, magari da vicino strappiamo. Gianni, com'è? Ho detto, è bella forte, Fabrizio. Veniamo lì a Porto Torres, com'è questa radio lì a Porto Torres? È bella, fortissima, ma continua a preferire la prima. La prima era bella chiara, bella prepotente. Questa sì, è forte, è bella, però tende a, diciamo, a distorcere un po', perché si vede troppo amplificata, secondo me. Adesso ho abbassato leggermente, come ti sembra? Questa va meglio, questa va già meglio, abbassandola va già meglio. Gianni, a te come ti sembra? Sì, ha ragione Eugenio, te va meglio adesso, è più chiaro. Allora, guarda, adesso faccio la differenza, questo praticamente è l'MC60, abbinato al 440. Adesso io, siccome devo fare delle prove per vedere se il microfono esce bene, quello che poi dovrò modificare un apparecchio, volevo vedere il microfono. Adesso collego il microfono della LAN 48. Ah, al 440. Il microfono del 48 al 440. Adesso c'è il microfono del 48 al 440. Volevo vedere come stava uscendo, perché questo è quello che dovrei usare col doppio modulatore. Ah, di lusso. Perché stavo pensando di modificarlo dentro, amplificarlo, però credo che non ce ne sia bisogno. Ah, col doppio modulatore no, ci vuole il microfono, guarda, quello della CTE va benissimo, sul come te parlate due, sono rientrato comunque. Ciao Robè. Allora guarda, vediamo lì a Porto Torres. 1, 2, 3, prova a Porto Torres. Porto Torres è sparito. Capito, da parte mia sta andando male, è proprio tutto brru. Male, vediamo gli altri. Gianni, questo qua come lo senti? È un po' nasino, rimane leggermente nasina la radio, non è. Accettabile Fabri, ma non è chiara là. Quindi nasino, rimane un po' nasino questo microfono. Ma da me non rimane nasino, boh. Prova Fabri di nuovo. Guarda, questo è il microfono dell'Alan 48 che lo sto provando su questo apparecchio per capire se è nasino o non è nasino, come va, dove decidere se utilizzarlo o no. Ma io la sento abbastanza spinta e va bene, ottima, non è nasina, non lo so già. Non lo so, Io lo sto ascoltando in cuffia. Ma io con la casa del baracchino. Poi vabbè, Fabri, per me, per come la penso io, la radio è un qualcosa di soggettivo, attenzione, a me piace questo. Vabbè, allora vuol dire che il microfono sta uscendo egregiamente, è un microfonino di quelli da palmo normali, dinamici. E a te Robe come lo senti? No, a me non piace, è troppo compressa, sembra che stai saturando. Non credo che sia problema perché siamo troppo vicini, è proprio la radio. Prova a abbassare un pochettino, Fabri, sembra quando sei attaccato con l'amplificatore, stai saturando. No, lontana dalla bocca invece, Fabri, forse sei troppo vicino. Adesso allontano un pochettino la bocca, guarda un attimino, 1, 2, 3, prova. Perfetta così. Allora, le tonalità ce le hai, Fabri, vanno bene, è chiara, però c'è questa compressione, troppo compressa la radio, come quando stai iniziando ad andare troppa potenza e sta saturando. Però la radio è abbastanza chiara, però c'è questo blu, come quando sta saturando la modulazione. No, quando c'è l'allontanata la bocca era chiara, vabbè, come ti fai di così? Cioè, come l'allontanata la bocca, la modulazione diventa tagliata. Io ti ripeto quello che ascolto qua, poi da voi probabilmente siete più lontani, non lo so, ma non c'è un segnale, un 960 per essere così forte, perché qua sta arrivando 940 Fabrizio, per cui mi sembra un po' strano, non lo so io. Ciao Robe. Ciao. Il parere, capito, è sempre diverso, però io adesso a Fabrizio come l'ha lontata la bocca era chiara la modulazione. Allora, io non ho detto che non è chiara, capisco tutto quello che dice, la voce e anche le tonalità ce li ha, però è quando una radio è troppo compressa, era compressa questa radio. Fabri, riparla col microfono staccato, forse non ti ha sentito. A te che mi squilla il telefono, un attimino. Adesso è un po' meglio, lo vedi? Io, quello che ho visto, quello che sento, dico, sono in cuffia, Robe, sto ascoltando le radio proprio perfettamente. Questo passaggio che ha fatto era buono. Aspetta che sto telefonando, questo è l'MC60 comunque, aspetta, devo rispondere al telefono. Ehi, ok. 950 comunque il segnale di Fabrizio, boh, non lo so io. Magari bisogna abbassare un po' l'intensità microfonica, non lo so. Comunque da, meglio di me non esce nessuno, vabbè da. Tu arrivi 960 e mi spacchi anche lo Smith, ne ho cambiato già due oggi. Ma so che sono troppo forte. Ma è l'aria del portottorro, secondo me, l'aria di Ravuzza, aveva posto d'orla, tutti i portottorri dice avete la mania di Ravuzza, non è così oggi. E allora, siamo tutti bugi. Gli uomini di ferro, mi di trono di spade, uguali. Ma come ti vedi a San Gavino oggi? No, non ne fanno quest'anno, cioè l'hanno rinviata a ottobre. Alla fin fine, la vera festa di San Gavino è a ottobre, il primo di ottobre. Ah così, no, anche la cavalcata la fanno a settembre, ho sentito. E noi la facciamo a ottobre, la festa, rinviata. Allora non si tanno al porto, non la fanno più oggi. Sì, la grigliata è pesce. Quella del pesce. Però adesso a pagamento, prima era gratis, adesso a pagamento, così. È cambiato un po' tutto. Vabbè, a pagare ci si paga 5 euro, mi sa tanto. Per mangia tutto, cosa ti dà mamma? No, c'erano mangia tutto, l'anno scorso c'erano mangia tutto, poi c'erano i polpi, i calamari, insomma, quella roba lì. Ah vabbè, se sono un po' più calamari già va bene, anche sono andata a un paio di sagre, quella del tonno di Stintino, che era una cosa, quando l'ho visto ho detto non è possibile, 13 euro, ha detto te ne dirò, tu dove come cucinavano il tonno, ti davano una pasta con pezzettini di tonno sopra e poi una fettina di tonno, cucinata col bruciatore, quello col cannello che usano per il catrame, 13 euro. Per carità, no, qua ti davano, si mangia tutto, i cosi, calamari, qualche pezzo di polpo, un bicchiere di vino e un pezzo di pane. Sì, no, quando è così già va bene. Poi sono andato a provare il carciofo a Cosmo, a, come si chiama? A Santa Maria Cugina, insomma a Valle 2, Santa Maria Cugina, 10 euro, una passata di gnocchi con carciofi e due carciofi bolliti, infatti arrosto, 10 euro. E quando queste sagre hanno perso tutto, la sagra di carciofo è nata a Uri, io andavo sempre a Uri, ma per carità, Adesso Auri lo fa bandiera gialla, arriva le furgoni di bandiera gialla. Per carità, prima cucinavano loro, erano veramente buoni. Adesso li porta bandiera gialla, va. Lo so che c'è un amico che lo fa, dice quando c'è il periodo dei carciofi la sagra di Uri glieli danno loro, lui lavora in bandiera gialla. Vai Gianni, e poi chi c'era? Luca, c'era qualche... ah, Marco Condor. Avanti Gianni, che farei girare? Sì, a Uri era la sagra del carciofo, poi c'era a Bonanna, no, quella della ciliegie, che ti va a ripagare Mattesi. Insomma, adesso nemmeno l'aria che respiri ti danno gratis. Avanti Marco Condor, avanti. Bianco per me. Marco aveva fatto troppo ridere, sempre prende qualche cosa in bianco e poi c'è la notte, come i pipistrelli, i barbagianni, cos'è, sono i gufi. Ehi, ieri notte alle 2:10 abbiamo fatto. Ah, vero? Sai perché non ce la facevi? Ma lui è arrivato a Pignara. Ma lui ha le voci registrate, Gianni, allo sa. Se ne sta mandando, se ne sta mandando. Ah, non ti fidare, hai ragione Roberto, c'ha le voci registrate, sembra che stia parlando con qualcuno, sta parlando da solo. Non è in diretta, adesso per dire, noi siamo sicuri che lui c'è in diretta, lui c'ha un tastino, c'ha la risatina, bianco per me, così è Marco. Sì, sì, c'ho tutti i tasti con le frasi predefinite, le risposte, le risatine, oia. E magari anche in remoto, remotizzata la stazione. E acciuppandomi, capito? Io sono entrato a spegnere la radio all'1:30 e lui stava acciuppando con Giovanna. No, veramente stava acciuppando, come si chiama? Master. Chi? Fabio. Eia. Che cos'è il ragazzo? Nemmeno io sono il ragazzo. No, così, io mi sono aggiunto dopo, eccetera. Cosa c'è da fare acciuppare? Perché il ragazzo bisogna essere. No, no, no. Magari in 3 si acciuppa meglio, in 4, in 5. Già c'è, adesso esiste il tronco amico, quindi non c'è nel problema. Vero Gianni? Dai, aveva la gente, sto arrivando. Ma c'è il profeta pure. Ciao Claudio. Eia. Ma scusate, ciao Claudio, ho salutato. Marco, io ieri notte me ne sono andato, sono le 10 più o meno. Tu eri più stanco di me, mi stavo aumentando, poi sei ritornato dopo. Allora, spiego, ieri circa dal pomeriggio ero in radio. Poi fatta una certa ora, tipo la vostra ora di cena, io mi sono crollato, mi sono addormentato al baracchino per un periodo imprecisato. Poi piano piano, che ne so, che ora poteva essere 10, 10 e mezza, 11, non so Claudio, che ora poteva essere quando siamo rientrati. È entrato Pomponio, Giovanna, Fabio Master e poi chi altri c'era. C'era anche io e poi te ne sei andato, sono troppo stanco e poi là sei tornato dopo che te ne sei andato. Sì, praticamente quando sei troppo stanco anche, che non riesci nemmeno a dormire, a riposare, c'è quel meccanismo perverso per cui sto chiudendo. Guarda, ieri ho annunciato il quarantino per 10 ore, vabbè adesso sto chiudendo, però quarantino esecutivo e poi continuavamo a parlare fino alle 2:10 di notte, tanto. Eia, c'è anche Eugenio, avanti Eugenio. Eia, quindi ci siete anche la notte. Svegliano con i bisetti di lo mangiamo. Allora, una domanda vi devo fare, posso? Allora, poco fa è andato Fabrizio, a me, per me stavo uscendo bene, chi di voi ha detto che stavo uscendo male? Roberto, poi? Io non c'ero. Poi chi ha detto che stavo uscendo male? Tu e Eugenio hai detto che stavo uscendo male, Fabrizio? Fabrizio, no, gli ho detto che mi piaceva la modulazione col microfono della 48, che per me era bella. Poi gli ho detto anche che era per me, secondo me, dire che uno esce male esce, è soggettiva la cosa. Bisogna avere l'orecchio di uno che uno ha. Magari ho detto cazzate io e stavo uscendo bene, però lo Roberto giustamente ha l'orecchio più allenato del mio. Lui sentiva meglio di me. E magari era proprio come diceva lui, non lo so. Perché? No, vabbè, no, giusto così. Allora, tu hai detto, vabbè, Gianni, tu secondo te ci va bene, Fabrizio o male? Con che radio era? No, stavo usando un microfono della 48 nel baracchino, della 48 nel Kenwood. Baracchino della 48, non ho capito niente. Stavo usando il microfono del 48 nel Kenwood 440, mi sa. Della 48, c'è il microfono normale della 48 col 440. Fabrizio, ci sei? al telefono Fabrizio. Luca, io ho detto una cosa, le tonalità erano buone, però era troppo compressa la radio, era quando tu c'hai, come si chiama, un amplificatore attaccato o stava spingendo troppo, non lo so, la parte mia era tutta compressa, però la radio era chiara, ripeto questo, poi magari allontanandovi da voi, non lo so, la parte mia, la radio è quando uno attacca l'amplificatore che senti la radio smorzata, era così, solo quello. Poi c'era due diversità di microfoni, uno andava meglio e l'altro andava peggio, poi quando se ne stava andando al telefono, non so se si è allontanato dal microfono, in quel momento lì ho detto, mia, adesso stai uscendo bene, però è al telefono poi la Fabrizio. Vabbè, per me stiamo facendo bene, non è per farlo felice, se esce male glielo dico, ma qualsiasi persona, non è per farlo felice, a me se mi riesci male mica, vabbè, esco male, vabbè, e chi c'è un bel di voi, se mi scia male non mi piace la radio, lo dicevo, era bassa, ci va bene, tutto qua. Vabbè, comunque per me stavo facendo bene, poi non lo so per gli altri, forse per voi è più vicino a terra, vabbè, non lo so. Allora, poi la rinetta, vediamo un po' cosa dice Claudio. Qua era 9.50, tiene presente il segnale di Fabrizio, Luca, da te Mario un po' più lontano, Mario si attenuava un po' la radio. Oh, qua, allora, col microfono Alan 48 era a carico ribassi, però siccome questo baracchino riceve tonalità un po' più acuta, cioè riceve in modo più acuto di altri apparecchi, ancora qua reggeva. Io non l'ho sentito, altrimenti potevo dare il mio parere, io non c'ero, devo portare il cane. Gli abbinamenti si possono fare perché io uso l'MB più 4 e più 5 col 440, quindi dalla 48 c'è una buona spinta di microfono anche palmare, perciò è simile all'M43, l'MC43 del suo originale, dai. Poi Fabrizio c'è la voce abbastanza grossa, abbastanza acuta, quindi non l'ho sentito io. Se lo sento esprimo il mio parere, così non posso dire niente. E poi lo sapete, no? 10 baracchini, 10 radio diverse, 10 ricezioni diverse, chi ascolta in cuffia, chi ascolta dal parlante, bisogna avere i timpani a che grado di vibrazione oppure. Però siete presente che io la radio di Fabrizio la conosco e conosco come esce lui e con quel microfono che esce lui, so come esce normalmente. Tu mi ha chiesto come sta uscendo, no, da parte mia ha detto non stai uscendo bene, è diversa la radio da su. Vabbè, però tu te l'ho già detto l'altro giorno, hai questo modo di dire che magari forse non ti esprimi bene o forse non capiamo noi. Ho già detto l'altro giorno che uno è dire stai uscendo male perché a te non piace, uno è dire non è la tua modulazione originale, perché se io cambio questi tipi di microfoni che io uso, a me non mi dicono stai uscendo male, perché tutti lo sanno, mi dicono la tua modulazione è diversa da quella del solito, capito? Se secondo te la modulazione che aveva lui era diversa dal solito ci sta, ma dire a uno che esce male è un'altra cosa, Roberto. Quando uno ha la modulazione compressa, tu c'hai presente quando sei attaccato qualcuno con lineare che gli mangia la radio, lui era così, era tutto balbettante, io l'ascoltavo così, poi la voce era chiara, le tonalità ce le aveva, però era tutta compressa, quando sta saturando il coso, c'era troppa potenza in parole forti. Vabbè, sicuramente Mari stava spingendo troppo sul power. Quello lo fa il 440, se spingi troppo sul power va in saturazione, ma anche col microfono col 60, con l'80, con l'85, con qualsiasi tipo di microfono lo fa. Vabbè, comunque io non c'ero, quindi non posso dire niente. Infatti 9.50 qua, perciò arriva anche a me fortissimo, siamo vicini. Va bene, Gianni c'era gente mi pare. Gianni il profeta ci sei? Oh, premetto che l'ho anche attenuato Fabrizio, per evitare distorsioni da segnale troppo forte. Sì, vabbè, ma non è questione di attenuare, io non attimo mai nessuno. Però la radio se è compressa, come ha detto Roberto, è derivata dal fatto che hai troppa potenza, tutto lì. Vabbè. Ok, avanti. Avete lasciato in bianco a Riccardino, ragazzi, io vi saluto, grazie, i bacioni, rompimento di scatoloni, ciao a tutti, ciao. Ma a travagliare deve andare, se tu lo senti a Riccardino lo rilanci, io non lo rilancio perché non lo sento, per me è come che non ci sia. detto, va bene, almeno io lo sento, ma c'era, mi hanno detto che aveva un portatile, un qualcosa del genere. Va bene signori, no, ho già finito, poco fa di lavorare, ero a Rana per Valencia, ho finito alle 7. Gente, è arrivata, scusate se glielo chiedo, per non fare monopolio, è arrivata la gente, hai notato, visto che oggi si sono aperte le fronti? No, negativo, perché era una nave solo di carico. Sono sbarcati 12 articolati dalla Spagna, però passeggeri non ne porta. Ma quindi la Tirrenia non l'hai visto se ha portato gente stamattina o il pomeriggio? No, negativo, oggi ti ripeto, ero al Valencia, non ero in Tirrenia, domani sono in Tirrenia, me lo chiedi domani te lo faccio sapere. Sì, ammazzali tutti quando arrivano, i paralizzati non fanno entrare a nessuno. Vai, chi c'è? Claudio. Ciao EG, ci sentiamo, buona cena. No, manco non arriva nessuno, oggi tendo. Solo con l'autocertificazione possono sbarcare qua. Cosa deve arrivare? Cosa va a dirvi a Revendi? Lascia andare un casino che si riponga nei turisti. Fino a giugno noi siamo a posto, dobbiamo uscire noi prima di loro. Vediamo, dai, se ti guadagnisci, io da oggi sono libero, non me ne ha fatti nulla, io devo andare e vado, non mi frega più niente. Io oggi mi stavo lavorando, stamattina ero fuori sassa, ero fuori sede, poi sono rientrato, l'una forse, l'una e mezza, l'una e un quarto, non so, poi sono riuscito alle tre, ho fatto roba sassa, sono rientrato alle 5, domani sono tutta la mattina impegnato lo stesso, io sto uscendo, non me ne ha fatti nulla. Mascherina, i miei guantini appresso quando entro negli uffici, nelle cose, però io devo lavorare, non posso stare a riattarmi le palline di Conte, capito? Avanti Marco, riprendi. Scusate, e comunque alle 7:05 nessuno contagio in Sardegna, questo voglio precisarlo, nessun contagio in Sardegna, e questo è, ce l'ha detto uno della, come capo si chiama, del controllo che stanno facendo al porto, della guardia forestale. Questo è un buon segno, perché non deve entrare nessuno, quelli che entrano devono essere autorizzati dal presidente nostro, capito? Meglio così, speriamo che si sblocchi, così anche mia figlia il 1° giugno rientra a lavorare, dai, se no è un casino. Vai Marco lì. Io in via Roma già ho visto un gruppetto, erano belli attaccati a chiacchierare. Vabbè, comunque non è un problema. Io paura non ne ho, la paura mi viene, quando mi verrà anche la paura. Ah, ok. Io devo salire da Roberto e non posso salirci. Un casino. Anche perché non puoi salire? E non si può salire adesso a Sassa, lo salico e guardare i carrozzini. Tu non devi dire che andiamo nella carrozzeria, se non a trovare un tuo parente. Se poi ti dico chi è il tuo parente, Claudio Marti, via Ugo, la mazza 34. Yeah. La vista parente si può fare oggi, noi devi dire tornando da carrozziere. Scusa, tu dici che stai venendo da me, io sono un tuo parente, capito? E non ti tocca nessuno, Yarujai, Pitbull, lo sai che qua c'è Chihuahua, si affuso. Vabbè dai ragazzi, io vi lascio, ci sentiamo più magari più tardi. Ciao a tutti, ciao. Ciao RG, ciao. Vai bro. Cazzo Lugaria, ma la chitarra? No, questo ragazzo c'ha 22 anni mi sa, 21-22 anni, ma con la fisarmonica è un mostro, Se devi figli di capire con la fisarmonica ti vale le lacrime, Ottavio, cazzo lavori due. E tu guarda, ma la amicizia vostro Antonio Enrico Tanca, vedi un po' quanto come sono la fisarmonica vostro ragazzo, ti muore le mani in capo, guarda. No, vabbè, non lo dubbio, però sto dicendo io, questo non conosco, non conosco il figlio di Gianni Capridue e con la fisarmonica è un mostro. No, ho detto qua qualche serata, è molto richiesto questo ragazzo, è molto bravo, poi c'è la tastiera, è molto bravo su tutti i tanti strumenti, poi 21 anni, 22, 21 o 22, adesso non lo so, mi va, senti. No, non fa quel lavoro. bravo, ha molte visualizzazioni, veramente bravo. Sì, noi da giudizio di figlio del KP2, Ottavio, fa la stessa cosa, è richiesto, fa, non so se fa concerti, fa serate, fa di tutto, capito? Ma c'è un bel di attrezzatura, un bel. Uno station wagon, un pieno di roba, quando esce, stai scherzando, lo so perché lo conosco, molto bravo, ma lo sa anche Gianni, che già lo conosce. Possiamo girare, ma questo qua è bravo, bravo. Chi c'è rimasto? Roberto e Marcolino Condo. Ci sono ancora, sono tornato due minutini. Cosa? Non c'è un profeta? Dice c'è il profeta appunto. Non so, io sono rientrato, l'ho chiamato, non ha risposto. Sì, c'è solo Luca e Marco, il Condor Passa, la conoscete quella canzone di Samora e Garfunkel? Vabbè, l'hanno rifatta loro, il Condor Passa. Ehi, conosco, no? L'ho sentita qualche volta. Ehi, cosa volevo dire? Mi ha portato cosa? L'amico nostro, l'animatore, il coso, come si chiama? L'FT 8000-7008, quello c'era già da un po' di anni, un po' maltrattato e un po' complicatuccio è quello, entrare. Ci sono 49 pagine di menu quando entri per impostare tutto. Li ho impostato adesso i tuner a 74.400, lo shift a meno 600, però va una marea di roba questo. Che cosa? Ti ho sentito ieri con Giovanni, ero a 145.800. No, ho capito. Ti ho sentito ieri parlando con Giovanni, Bracco, ha detto che eri a 145.800. Non devi fare 145, non è venuta. Io a 145.800. No, stavamo parlando di frequenze ISS. Ah, frequenze senza senso? No, era una frequenza della stazione spaziale per ascoltare che passa in certi orari per pochi minuti, mica vado a quelle frequenze, stai scherzando? Ah, allora lì che stavi facendo via satellite, perché oggi tu cosa cazzo sta ascoltando a 145.800 sono venuta, 144.800 c'è un loro bel pacchetto, mi sembra che sia Rosello, PSK, non so, vabbè, c'è qualcosa con quelli a 144.800. Va bene. Però a me a 145.8 c'è qualche cosa, qualche ponte o di qualcosa, magari non è frequenze normali, ogni paio di secondi siete tonk, tonk, fa un'attivazione. Un beacon? Un beacon probabilmente. Un beacon? E niente, sarà lo splatter che prendi da 145.787.5, cosa vuoi che sia, è vicino. Ah vabbè, quello lo sento pulito, no, ma questo è una cosa che dura ciclica, per dire ogni 10 secondi o 5 secondi fa ponk e ti dà un coso, sale la portante e poi riabbassa, sale e riabbassa, però ciclica è una cosa, secondo me sono delle frequenze campione di qualcosa. Ma lo fa sempre, accendiamo, vediamo, accendiamo, ecco qua, 145.800, vediamo. Questo è il ponte, mi risponde il ponte. C'è qualcosa sotto. A me dico non mai fa. C'è una qualche interferenza con la lanterna che c'è tu, messa così, legata sotto così, sta fatta la matta, ma può anche fare interferenza, le lanterne ce le ho tutte separate. Non sento niente, roba io, non ne ho bico. Santiago 6 arriva ogni 10 secondi esatti a tempo, lo segnale a tempo. Santiago 6, no. Con l'ICR 7000 non l'ho provato col il coso, col 711. Aspetta, allora. Robe, a me arrivava questa sberla che mi abbatteva i segnali tipo PMR dintorni, ma forzemi, e poi ho scoperto cos'era. Era il sensore esterno di pressione e temperatura della stazione meteo. Altre cose ci sono, io ce l'ho l'elenco delle frequenze, c'è un libro delle frequenze, da 25 a 2005, ma ci sono tante di quelle frequenze che neanche ci immaginiamo, molte sono cose militari, questo 145.800 non so cosa sia, a meno che non sia il segnale della stazione, cosa vuoi ti dica, per aprire qualcosa. Non è niente, ti ho detto, io ce l'ho acceso, nessun tipo di attività 145-800. Ecco, e adesso non hai sentito, adesso è arrivato Santiago 9, Claudio. Non c'ho niente, io che tu guarda. Ti ho aperto lo switch. Io non sento niente. Ti posso garantire che la mia antenna funziona, È un disturbo che c'hai tu da qualcosa. Cosa ci sia il centro di elaborazione dati del comando dei vigili urbani? Può essere qualunque cosa, però un segnale ciclico. No, è Claudio che ha le antenne di plastica. Di gomma ce li hai tu le antenne. È un show di due antenne in vagio. Ce n'è una io, monobanda, verticale, che non ce l'ha nessuno a Sassari, un mostro, è proprio agganciata qua al pivot, perché sull'ICOM c'ho la 510, questa è un'antenna monobanda solo per le VHF, è alta 5 metri e 60, quasi 6 metri, ed è una canonata, tu immaginati, allora metto memorie, eccolo qua, questo ponte qua, guarda il ponte, guarda. Questo è il ponte che è in Liguria, vai e ci sarò tu da Sassari, dentro Sassari Romano, dove ci sarò, vai. Qua non arriva, no. Claudio, allora se tu ascolti, allora è un segnale tipo digitale, fa ed è ciclico, c'è un segnale Santiago 9 e un segnale Santiago 5. Io non so se lo prendo solo io qua, perché è ciclico, fa e fa una specie di rumore tipo quando un segnale in digitale fa un verso strano e va a Santiago 9 con l'ICOM. E l'altro segnale è 5, sale a cosa? A potenza elevata. Vabbè, fatti portare, cazzo, mi fai adirare a voi, ti ho detto che è un disturbo che hai dal comando dei vigili urbani. Non hai visto cosa c'è davanti a te dei vigili urbani? È un disturbo, non c'è niente. Ce l'ho la frequenza inserita, non c'è niente, 140-800, non v'è nulla. È un disturbo che hai tu, è boh, tranquillo. Sì, sarà un disturbo, però ti ripeto, qua arriva 9 e quando sale questo picco si sente una specie di musichetta digitale, quando ti arriva in digitale che non capisci niente, è un sistema di codifica che sicuramente c'è sotto, ti arriva 9, poi c'è un altro che va a 5, però sono a tempi ciclici, ogni 10 secondi parte. Magari è qualche radiocontrollo da un milliwatt, sai quelle cose cicliche, proprio localizzate a livello di poche centinaia di metri. Ma si intende che la selettiva dei vigili del fuoco è finita, cioè dei vigili urbani, io, dai, e te lo sto dicendo io, è così, è qualcosa che si attacca e si sgancia, è qualcosa del comando dei vigili, è impossibile, perché io non c'ho niente. Ho l'antenna a 45 metri, io la V, le V e le U, non sento niente, non c'ho nessun disturbo. So solo se apro lo squelch, ma il segnale che se c'è la luce devo avere anche io, no? Che sono anche più in alto. Le antenne mie sono più performanti delle sue, quelle in V e in U, no? Però non sento niente, è qualche disturbo che lui ha dal comando sicuramente. Roberto? Allora, no, io non so cosa sia, è tra l'altro una frequenza che non utilizzano queste cose, cioè ci sono due segnali distinti, uno che arriva a Santiago 5 e trasmettono ogni 10 secondi, adesso li ho contatti, e l'altro arriva a Santiago 9 e quello Santiago 9 fa una specie di effetto digitale, quando c'hai una modulazione digitale, la sto ascoltando in FM io, non è né stretta né larga, non so su come l'ascolti, siete in FM stretta o larga nelle vostre bande? Class. Non abbiamo problemi, io ho larga o stretta. Questa è FM normale invece, larga. Questa è in automatico. In automatico 275 e vediamo. Poi togliamo questo selettore, vediamo qua. Niente. Vabbè, io non sento niente. Né S780, né su 275H, né sull'820H, non sento niente, è un disturbo che c'è tu nella tua zona, non è altro. Guarda, adesso faccio il video e dopo te lo mando e mi dici che cos'è, che rumore, che segnale è, perché è ciclico, non è un disturbo fisso, per dire c'è una lampadina, un computer, questo è ogni 10 secondi fa un segnale, sale, tipo quando si apre un ponte, una cosa del... però a 145-800 non c'è niente di frequenze normali, è utilizzata da questa stazione spaziale, ma non che non sia questa stazione spaziale, cosa vuoi dire? Tu ricevi la stazione spaziale, io non ricevo niente, a posto diciamo, si è tutto allora. Tu hai detto non lo ricevi, io ti ho detto qua arriva a Santiago Nova. Vale. Aspetta, fatemi riprendere qua. No, volevo chiedere a Roberto, aveva accennato dai 25 in su di frequenza. Per caso hai scanner No Limits, quello con la scala parlante? No, io ho da 26 a 2005, si chiama Frequenza Italia, terza edizione, dell'Eurocom Pro. E poi c'ho un altro scaricato. Questo è proprio un libro che me l'hanno fatto spedire perché non è facile trovarlo. Infatti avevo chiesto anche a un amico mio che vende quello qui, quello che c'hai la biblioteca qua. L'ho dovuto trovare da, per fortuna, me l'ha fatta. Sì, Eurocom lo conosco, è lo stesso che produceva quel programmino, insomma quella cosa lì, Scanner No Limits, e ti diceva tutti i servizi assegnati su ogni singola banda, dai 25 fino a un'infinità, probabilmente è l'evoluzione di quello che avevo io, quello lì, molto molto carino. Poi anche certe volte anche mandate in PDF o in testo, ma mi sembrano vuote le frequenze, è vero, ma ci sono tanti di quei servizi assegnati, mi tremano le gambe qua. Quando io a Roberto dico le cose lui a me non mi capisce, insiste, c'è sempre la maniera di insistere, metti 815, 145, 815, c'è il beacon del packet, lo senti? 815 però, quello che hai tu è uno splatter, metti 815 perché arriva a fondo scala, è un beacon di un packet. Claudio, ma tu c'hai le antenne di plastica, loro no. No, ma è due siti sempre, gatto, boh, sembra che sono arrivato ieri. Aiuto, boh, mi sembra strano. Se io non sento niente a 800, è a 815 infatti, non è a 800. Ecco, lo senti? Via, ti stavo dicendo, qua, ma c'era qualcuno che mi cerca? Bianco per me adesso. L'hai visto 815? C'avevo la... Sì, allora è quello lì, 145-815. Sì, è un beacon. Stavo facendo cosa qua? No, io no, forse ti ha cercato Marco. No, io infatti l'avevo rilanciato un momento, ma poi non l'ho più sentito apparire. Ce l'avevo spento, stavo facendo cosa qua e quindi ero impegnato, capito? Va bene, sempre devi esistire tu, cazzo. Mamma mia quanto mi fa di radio. Scusa, frequente ci sono tutte. Sono radioamatore, non so che cosa c'è 800. 815, vediamo se l'ho fatto, lo faccio sentire, ma... Cos'è questo? Eccolo qua, l'hai sentito? Eia, qua non arrivo, sono in antenino interno però, con l'unidetto. È uguale, mi date un controllo per cortesia, se è uguale a prima, perché ho messo il filtro anti-TVI, ho messo... Ehi, no Marco, ma se metti 815 ti dovrebbe arrivare anche a te, vabbè, a me a fondo scala, ma no 800, 815, infatti non capivo, quello è un beacon, quello sì, vabbè, ok, diciamo per essere stronzati, questa vicenda è una pellicola. Che ho messo il filtro anti-TVI perché il cavo grosso mi tocca il muro e mi viene male a metterlo. Mi si era fatto tutto storto il coso e quindi è un macello. Gli ho messo uno spezzone di RG58 e il filtro. Vabbè, filtro non filtro intanto. Se lì c'è questo problema, bisogna che se lo risolvano. Ma futti di... E prendi Marco. Natale, hai fatto la stessa cosa che ho fatto io, perché l'RG 213 mi ha rovinato, ti ricordi, il filtro anti-TVA interno dell'altro 3009, me l'ha dissaldato dall'interno, sai, facendo leva al cavo pesante, e quindi anche io ho adoperato sistema filtro anti-VI buono, non ZG, vabbè, buono è una parola grossa, ce ne sono anche da 200-300 euro. È uno spezzone di RG58, almeno non ballano, cioè non tira, non fa peso. Infatti è per quello che l'ho messo, perché è troppo attaccato al muro l'apparecchio, capito? E quindi forza, non va bene, là, non riesco a metterlo, bisogna smontare l'apparecchio per mettere quel cavo. Natalia, ma tu che fine?